se avessi avuto margine da 1 a 10, ma non riesco a trovarlo, oddio. Ora sì che ci siamo, ancora non sono arrivato, c'ha quasi 300 parametri di menu, fatti rugonto, du. Di tutto si trova su quella radio. Capita, vai du, esci fuori la gabbuga, per carità. Vabbè, dai. Piano piano già lo trovi, studiatelo bene, piano piano, quando hai tempo. Avanti Gianni. Gianni mi sembra che abbia detto che riprendeva da casa sua. Sì, tranquillo che già vedo io la gazzosa, non ti preoccupare. Aveva ragione Gianfranco, Però non sono intelligente, ma non sono manco stupido. Non mi reputo un tonto, quindi lui deve fare quello che dico io sicuramente. Già lo credo, e vorrei vedere. Che bitina, lo credo. Sì. Ma quel menù, anche nella recensione, ti fa difetto? Oppure nella recensione invece non c'entra niente? No, già sulla recensione praticamente c'era il clarifier leggermente spostato, anziché essere centrato a meno 21, quindi l'ho portato centrato a meno 0 e adesso vi sento tutti bene. E i filtri sono larghi e va bene, praticamente si tratta solo di dare una sistematina un po' più adeguata alla modulazione, tutto qua. Va bene, dai, adesso stacco il DB9 che l'ho collegato al computer e poi ci sentiamo Giulio. Comunque mi confermi che più o meno ci siamo. Sì, te l'ho detto qua, sei tornato tu con una modulazione leggermente meno amplificata. Sei ritornato tu con la tua voce, per cui però sicuramente una regolazione c'è ancora da fare, perché io sono abituato a sentirti con quella amplificazione bella squillante. Senza nessuna cosa, questa qui rimane leggermente più cupa, rimane chiara, indubbiamente chiara, però meno amplificata, dunque bisogna eliminare quello, il fatto che sia leggermente più cupa del solito e che non è con l'amplificazione che solitamente utilizzi tu. Va bene, hai fatto bene a dirmelo, così so come regolarmi, dai. Va bene. Mo vediamo, adesso stacco il coso e provo a entrare nel menu senza computer, senza videata del computer e vediamo cosa mi dice. E faccio la programmazione col set, come mi aveva detto Gianfranco. Va bene, a dopo Giulio. Saluto tutti circolarmente. Ok, ci sentiamo dopo un attimino. Ok, ciao qua. Ti voglio ricordare che è l'ora del cane, forse te ne sei dimenticato, no? Non credo però. Porca miseria, l'altro che radio, per quello sta sempre male. Io ero abituato in campagna, Giulio. Porca miseria, dai, vado a portare il cane prima, poi ci sentiamo, grazie. Sì, figurati, siccome non so quali sono le tue abitudini, o meglio le abitudini del cane, per cui, visto e considerato che era impegnato con questa regolazione, non si è dimenticato di portare il cane, sono già meno 20, quasi. Vabbè, ci sentiamo allora, dai. Ok, ciao qua, alle prossime. Ciao, a dopo, ciao. Prego. Avanti. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao anche a Claudio, nel stadio, sentito di sfuggita. Allora date un rapporto di segnale. 8,5 radio a bomba. Ok, dai. Contraccambio quello di Claudio che l'ho sentito di sfuggita. 7,9, 9, 10 sta arrivando qua. Vabbè, io sto pilotando con un attimino, Giulio. Va benissimo, qua, non c'è problema, va benissimo. Soprattutto la radio è ultima, veramente. Molto bella, forte anche. Ok, dai, no, stavo provando questa radio, stava andando, è giusto anche il microfono come stava uscendo, tutto qua. Ok, ti contraccambio il rapporto 5,9 qua, 5,9 più 10, dai, giusto. Ok, fra, va bene, in campagna sì? No, negativo, sono a casa adesso, ma sto pilotando con l'antennina perché l'antenna ancora non l'ho montata sopra. Ah, ok, va bene. D'accordo, fra, alla grande veramente. Ok, vabbè, dai. E anch'io chiudo, dai, adesso sono già le 8:20 passate e gira, me ne scendo giù, così incominciamo ad apparecchiare. Ciao, ciao Fra, alla prossima, dai, ci sentiamo, ciao. Ciao Gianni, se c'è l'ascolto e tutti quanti quelli che c'erano. Ciao Gianfranco, se sei ancora all'ascolto, ci sentiamo eventualmente domani. Ciao Fra, se sei ancora all'ascolto, alla prossima, ciao. Ciao Giulia, dai, saluto a QRA, ce la riascolta alle prossime, saluto anche da oggi che sono all'ascolto. QRT anche da parte mia, dai. Vero. Lucariella, buonasera. Ah, già mi senti, sì. No, stavo provando questa antennina per essere ascoltabili da te, tu. Fotoscala. Cava, quindi già va bene, dai. E sto usando un antennino piccolino, Lucariella, capito? E ascolto anche a Giulio. Fondoscala. Qui sto lavoricchiando, mi sto mettendo a posto un computer. Chi è che c'è qua? Ma non lo so, c'era Giulio Claudio che passate quel reti, non so dove c'era quel reti di entrata. Poi non so che altro c'era, mi sa che c'era Gianni anche, tutto lì. No, stavo provando questa radio, vedo come sta facendo, Luccaria, capito? È una bomba, fra, una bomba. Cava, è un coso, no. Praticamente il 68 con l'MB più 4. Certo, mia radio. Capo di positivo, il 68 quello là, Ernie, capito? Quel Midland. Sì, è quello famoso, cazzo, non era una radio un bel forte. E gli ho adattato praticamente l'MB più 4, ce l'ho a 1, a 2, l'MB più 4. Lo posso ancora aumentare. Cosa ti possiamo avere bisogno? C'è una bomba, non c'è bisogno di aumentare. Anche io, guarda, da così a così, non so se ho aumentato qualcosa, Capo di positivo, sì, ho aumentato la radio. Guarda, perché se l'aumento magari va a strappare, capito? Vedi un po'? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raga, la musica andava. Andava, allora lascio così, dai. Che era per il positivo, che la radio era la cosa è bella, ragazzi. No, non muore mai questa radio, è sempre funziona lì. È allucinante. La porta di funziona. Sì, quindi la voce di funziona. Io ho mica ferma, adesso la provo a accendere per se va ancora. E io ho pulito un po' il coso del potenziometro perché raschia un po', capito? E la mia funziona. Perfetta, e beh già, mi senti già? Ti sento forte e chiasso, avanti. E allora, io sono venuta stamattina alle 5, lavoricchiando giusto per guadagnarmi la giornata e sto ancora lavorando. E cosa stavi facendo? Ci sono fatto una TV. L'ho già consegnata, poi un telefono, adesso facciamo un computer, poi domani ho un altro computer, insomma va qua così, qualche soldino, fanno bisogno sempre. Bisogna, quando ce l'hai bisogna arrastrare. Molto così. Ma tutti andati via, sono Marco Condo, l'ha dato sempre. Ma sai quello è cuocomane. Tutti a mangiare sono andati, tutti a fare carre e batteria. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Fra. Un vizio che non si vede, chi si va l'anno che non si perde mai quel vizio. Quando si scarica la batteria già il problema è quello, capito? Aspetta un attimo, faccio un passaggio, un attimo. Impedi, zia Ish. È Londra. E beh, la pescare stai scendendo, no? Ho detto una volta solo, Fra. Ho preso un'orata e due saraghi bellini, l'orata sui 450 grammi, là. E allora ti mando la foto di quella che ho preso io, dai. 4,7 kg. E dove sei andato? A Molà? No, oh, negativo, alle saline. E già va bene, da solo siamo. Cara. Attenzione Franco California, senti qua questa piccola chiamata, vita mia, che vita mia. E dice Vulcano, ho sentito, eh? Sta sparando, sì, Gianni. Dimmi Fra. No, Luca sono, cara. Ah, Lucas, sembra più Franco di Viale Sicilia. Senti qua, questa vita mia che ti chiama, fratello, ci sono problemi, dai, la cosa è bella, gatta. Occhio che fai TV hai. No, io faccio TV hai, cara. Posso fare TV guai o TV hai? Sono atto. Attenzione, Franco California, se tu ascolti Luca qua, coordinate strasse di Nord Sardegna che ti chiamo, capo frate, gappa. centro di loro, facciamo l'infossunta. Ma infatti voi va bene nel camion. E adesso lo posizioniamo e faccio le foto, un centurio e uno spedito. No, 201 per spedizione, un cavolo, e già ci ho pagato 2,30. Che radio è? Typhoon 2, ce l'avevo io, nuovo nuovo ce l'avevo io, l'ho venduto. Ogni chilo che parlo si prende, non ci sono problemi, dai, che riprendi già, dai, che adesso, dai, ci sto un po' di passaggio, vabbè, aspetta, così quanto le sei caldo. Sì. Però non sto più usando, è già una lì. Che bello. Ehi, affa. E quindi, e cosa hai messo come esca? Fra. Signor Guariello, ci ascolti qua la città di Sassari che chiama Cambio. Attenzione, Franco California, se tu ascolti Luca qua, coordinate Sassari, Nord Sardegna che ti chiama Gabba Gabba. La tiki-taka, la gulita, la positiva, positiva, Gabba Gabba. Luca, com'è questa radio? Cazzo la radio. Hola, com'è? Un forte. Boh, non capisco nulla. Un bel forte, un bel forte. 2009 con le BB5. 4009, 2009 con le BB5. Cazzo la radio, bella. E questa qua, vabbè, l'ho modificato al micro. Chi è? Cazzo, fondo scala, chi era? Davvero. Chi è? Che bagata. Guarda se ti si incolla lo smitter, cambio. Sta sbattuto dall'altra parte, la massa di rifaria. Guarda se senti qua, cambio. Adesso l'abbasso. Guardate, fatta sta arrivando adesso. Sta passando scala, sì. E ma senti qua la vita via. Comunque c'è una bella radio, una forte. Tutta positiva, non ci stanno problemi, gabba. Ho già, sto usando quell'antenna piccola lì. Ehi, tu non me la dai quell'antenna, devi domandarti quant'anni. Bianco per lega. Stavo prendendo una da Fusaro più grande per metterla nel camper. Questa qua non la posso dare, è un regalo che mi ha fatto Claudio, capito? Già detto, se non la usi. E vabbè, intanto anche se te l'ha fatta Claudio non è che io la vendono, e mi serve per la macchina. Questa qua ce l'ho a casa io piazzata, sto uscendo con questa anche i miei nomi. Lo so. Io adesso mi compro la Turbo 2001, ho deciso. La Fusaro l'ho vista, 50 euro me la voleva dare. No, la Turbo 2001 costa di più. No, forse sto sbagliato. No, 70-80 euro mi pare, scusa. Ce n'è anche un'altra, però non te la consiglio, ce n'è una che è 1,20 m e praticamente c'ha già la base magnetica e tutto. Ma tu scusa, ma ce l'avevi la PCL 1000? L'ho venduta. Poi c'è la cosa, la Turbo tu, cioè la Turbo 2001. Tutto venduto avevo perché non avevo più intenzione di metterlo in macchina, adesso mi ha pigliato da un ballino, Ma non è bucare il cappotto, ho messo la magnetica, ho usato il cappotto. Ma che male che buco la cappotto e la macchina nuova. Appunto, o ce la metti a posto di quella della radio. Anche il baracchino metto un portatile, no? Non buco nulla. Il baracchino portatile, ci metti l'ala, non ce l'hai l'intra. C'ho l'Inter che è ancora migliore, che c'ha tutto, c'ha le bande, c'ha FM, c'ha tutto. Non mi piace già lui. Non mi piace come radio. Ma già lei ce l'avevo, io l'ho venduta perché non spingono la radio. No, la mia va bene. Intec, però tu forse non sai qual è, 520, è il migliore che c'è di tutti i portati. Non la conosco questo qua. Non la conosco, io ho la 68 pilotata con MBT4. Che pagato. E Intec 520, basta che lo cerchi, portatile Intec 520 sul telefono te lo fa vedere. Guarda. Adesso l'ho abbassato un po' perché sennò frappa questa radio. Sto parlando a distanza, Ehi, andare. Adesso c'è che c'è gente a casa, perché se no sarei andato a pescare. Solo è un casino, è un bel casino adesso andare, ma comunque è già... Allora, 45, questo guarda quanto costa. Infatti l'ho provato io, Intec 520. E portatemi che costa di più, di quelli buoni. 520. C'è anche 510. Questo è il più completo che c'è. Capo, la costa, non ho mai visto quel portatile lì. Io a portate che avevo un Intec 40 canali, però pure volato. Perché non ne facevo niente, non ne faccio niente che ci portate più. Qua l'unica radio che mi ha tenuto io è il coso, che c'è la linea dal 680 fino ai 50 e ci 60. Alimentatore PS53, quella è la linea qui, che quella non la sto usando. Adesso sto pilotando con la 68 con MB4. Ok. Andare. Aspetta un attimo. Così si va che la radio avrà il danno di Tauro Vegas. Non hai fatto il soldo, va delle cuffie che ha. Esagerato. Che regalo. Ora. E che non ve la faccio nel mettatore, no, che sennò guai. Come lo fatti? Oh, questo no. Questo è da 10 ampere, ma ce la faccio. Vedo così quanto avvate si borsa. Guardi, io non ce la faccio. Infatti lo sono abbassato. Sto uscendo con 5 watt, 6 watt modulati, se devo per 4 si posso. Sì, addirittura. Sì, guarda a me, sì. Adesso lo metto, cosa fa? Alla senti la alternata? È un po' sì. Non ce n'è alternata. Sì, strano. Io penso che l'italiano non sia inglese. Come va la Giada radio? Di russo, qua. No, ci vedo a cantare in inglese, io canto in italiano. Ciao, Califfo. Ciao, 59 più 10 qua sta arrivando. Dovrebbe considerare che io sto uscendo volante il mio piccolo, Ehi, a Santiago 7 sei tu qua, io sto usando una radio che... Prima di imparare sicuramente ci vorrà un po' di tempo. Comunque sto cercando di capire, ma... Al 50 ci sono già riuscito, dai. Però ogni volta devo attaccare al computer perché è un casino. Va bene, microfono normale Gianni, però con i parametri cambiati, dai. Oh, già va bene. Che radio è? Sempre il Barrett 950 SSB. Ma è radio amatoriale o una della 26? HF 030, c'ha 350 parametri di menu. Auguri! Io divento Marco con 10 menu, mamma mia. Adesso stavo programmando il tonton stamattina. C'ha menu, sottomenu, già da poco dico, già l'ho programmato e anche se sta leggendo le istruzioni, però sono cose che a me un po' mi danno fastidio a fare. No, già qua no, non c'è nemmeno né sottomenu. Questa è una cosa che tu immaginate che c'ha il sistema d'allarme, c'ha la selettiva, c'ha il GPS, è un DMR perché è analogico, trasmette anche in digitale, se io trasmetto su questo canale in digitale tu non capisci niente, se trasmetti io e Gianfranco qua tu non capisci, è tipo clippato, mi capito, non senti niente, è una cosa allucinante, guarda ti mando la foto, è molto bella illuminata, è grande, molto grande, è un veicolare HF grande, un bel grande. Grande diciamo, grande, abbastanza grande. Più lungo, alto più o meno 4,40, più stretto ma molto più lungo. Ma è radio vintage o un tipo di radio nuova? Perché questa marca sinceramente non la conoscevo. Siete in pochi che la conoscete perché sono radio professionali di alto livello. A me me l'ha fatta avere Gianfranco. Mi ha convinto Gianfranco perché io manco la conoscevo io, figurati che ho 40 anni in radio e 25 di radioamatore, non sapevo manco che esistesse. Sono marche americane, professionali, li usano anche a livello civile, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia, insomma, queste cose così. Ti sto cercando qua, ti mando la foto, dai, eccolo qua. Va bene. E tu, fra, tutto a posto? Cata di positivo qua, tutto ok, tutto ok. Non possiamo mettere di più di quattro qua, perché sennò quell'antemino si fonde. Ecco, ce l'ho solo un batto a te allora. No, ce l'ho nel freezer. Ti mando la foto. No, cazzo, così è rovinarla, metterla in freezer. Dopo vi mangiatela subito che raffresca. Sì, sì. Ti ho mandato la radio e il display a parte, guarda, è una cosa spettacolare, è tutta completamente illuminata, qualsiasi tasto, guarda i tasti che c'ha, da diventare scemo. Eia, un attimino, arrivo subito, che devo dare una commissione a mia figlia e arrivo subito. E già, cosa ne fai? Se da solo ce la fai a mangiare. Ciao, sono figata questa radio. Tutta quanta digitale tu hai questa radio? Completamente digitale, non ha niente, non ha manopole, non ha niente, lavora tutta in digitale, ogni tasto ha una sua funzione, ogni tasto ha una sua funzione, se lo guardi bene c'è quello della frequenza, per spostare la frequenza con i tasti avanti e indietro, c'è qua un mare di roba, lascia aperto, sto studiando piano piano, ma già... Gianni Vogubeni, siamo già a buon punto, vai, non problem. Sì, l'ho sentito già fra che le doveva spedire, ma non avrebbe accettato nessuno. C'è un break, avanti break. Ti sento molto, cioè, Santiago è 5, ma la radio non è comprensibile, c'è molto QRM, dai. Non so come tu mi ascolti, comunque Gianni doppio ronda, la Sardegna, la città e Sassari. Ti piace già? Sì, è bella. Cappa, dai. E io ti ascolto con Santiago dei 5, la radio... Te posso dare 4, dai, 4. Ben sentito, mio hermano, a Kiko S.O. local. Buona strada, mio hermano. Avanti qua. Ehi, ehi. Allora, adesso ho inserito anche il compressore. È un HF a livello, guarda, non ce n'è. Non ce n'è, comparazioni, ne ho 4 HF io, ma ci mangia tutti. È una bomba quella radio qua. Cazzo, c'è addirittura... No, 20 più 25 sei arrivato qua da me. Vatti, quanti ne ha? Allora c'è la potenza bassa, non l'FM, USB, l'SB AM. La potenza bassa è 25 watt, non puoi abbassare più di 25 watt, sono 25 watt modulati 40. La potenza alta è 120 watt, anche in AM. 120 anche in AM. 120 watt modulati in AM, in USB e nell'SB. Tu vai l'ordinare incorporato. Già, così è, mi dirà Gianfranco se ti dico balle, così è. Adesso ci sono 236 pagine di manuale, adesso ho capito come si fa, però io la stampante non ce l'ho, quindi domani vado e mi faccio stampare. Porto la pennina, me l'ho scaricata sulla pennina, il coso, e mi faccio stampare il manuale in italiano, ricudo una giuscia che finza che è dobbiazzi. Guarda, sta uscendo già bene con la radio normale, figurati se ribolle l'MC60. No, questo è l'MC60, non te ne sei accorto? Questo è l'MC60, c'ha l'attacco 8 come l'MC, come il Kenwood. Questo è l'MC60, quello che avevo poco fa era il microfono normale. Ah, ecco, allora ci siamo, comunque c'è bene, una bella radio. Ehi, ehi, ehi, si assomiglia, mi sono ascoltato, vabbè, 60-60, non c'è niente da fare. C'ha due connettori, puoi usare sia il microfono, non c'è bisogno di staccarlo, da una parte c'è il microfono normale, dall'altra parte c'è l'MC60. Una bestiolina avrà, una bestiolina, agli umiliati, 950 SSB della Barrett. Bella, no, c'è una bella radio. E poi qua dimmi MD+5, MD+4, MC60, MC60, non ce n'è. Non ce n'è a livello di microfono. Adesso costa 280 euro l'MC60. Ehi, MC60 non è più 4, non è un problema. Ti mando anche a te la foto della radio, fra. È veramente molto bello, molto bella. Puoi stare al buio, sembra un albero di Natale, cazzo, tutto si illumina. Da là la zetta, l'hai vista già? Sì, l'ho vista. Diciamo che, diciamo, più in grande di una radio che ho avuto io della Lafayette, ci aveva tutti i tasti così lo stesso. Non mi ricordo come si chiama, però aveva tutti i tasti verdi, ci aveva le memorie, ci aveva tutto quanto con i tasti. Lafayette, se mi viene te lo dico. C'ha 200 memorie, eccolo qua, Califfo Franco, c'ha 200 memorie questa. C'ha 200 memorie, lui andava a studiare lì. quella invece è una centrale nucleare, quella radio. Positivo, dai, frate, la cosa è bene. Che ragazza, io vado a fumare una sigaretta, dai, al volo, riprendo subito. Comunque ho fatto orario 1:05. Ti ho mandato la foto, guardatela, se ti piace. Questa è una radio che non ha nessuno, penso, in Sardegna, Forse ce l'abbiamo io e Franco, è Gianfranco e basta. Adesso la vedo qua. Ehi, è un HF 030, ma, loro mio, va bene a poco veloce. E beh, Brittella, cosa stai facendo? Mio computer è crack, ho consegnato un telefono alla TV oggi, guardate come faccio il vostro computer. Io oggi ce l'ho fatta, era un po' incasinato, ma per fine settimana te lo faccio avere quel computer, ma per me è un problema, non c'ha niente il computer, perde solo tempo, è un problema di Tiscali, perché funziona tutto. Oggi ero su eBay, stavo guardandolo su Google, su eBay, su Facebook, da tutti i ribassi. Ho scaricato il video di questa radio, tutto perfettamente funzionante. Vai sulle mail e non ti fa entrare. Ma te l'ho già detto, tu hai praticamente la... come si chiama? La... cioè in inglese la cosa, la pagina. No, è tutto in italiano. Io su Google stavo navigando, c'è tutto in italiano. È quel sistema lì che fa incasinare, quando vai sulle mail, capito? È tutto in italiano, se stavo, ho visto il video al bar, ti ho digitato, tutto in italiano, va bene. E il problema di Tiscali che mi hanno chiuso i viveri, perché sono passato a 3, capite, quindi mi hanno chiuso la pagina Tiscali, per quello che non mi fa andare. Da tutte le altre parti va tranquillamente, come quando me l'hai dato, è veloce e buio. Dobbiamo tirare la Russia, allora si andava in patetta, io non so cosa di cazzo così, poi quando peggiora lo porti. Non è questione di non portartelo, no, è questione che mi servono le mail a me, capito? Io voglio nuovamente, devo chiamare Tiscali e capire perché mi hanno bloccato, se devo dare dei soldi, glieli do, non lo so, non mi hanno mai detto niente, io sono passato, ho fatto il cambio, era tutto regolare, ma non da adesso, da anni, io con la 3 ci sono già 3 o 4 anni. Non mi hanno mai rotto le balle, capito? Non capito perché mi hanno chiuso la pagina iniziale. So che perché sei passato a 3 e te l'hanno bloccata. Scusate, non so cosa dire. Vabbè, non c'è problema, già si risolve. Prova un po' a contattarli, vai sul sito della pista, li vedi un po'. C'è rimasto. Io manco per scendere a portare il cane, ma te ne ha te l'hanno il cucciuccio. No, sono andato poco fa già, non c'è, no, 31 di settembre. Ma che cos'è? Yorkshire stesso? No, Pincher. Ah, Pincher. È un incrocio, dai, ma sono belli, Adesso ti mando il video, aspetta. Ehi, già l'ho visto l'altro giorno quando sei andato che l'hai messo su internet. L'ho visto, già è bello, si vede che è bello. Pensavo che fossero Yorkshire. No, me lo sono mandato. Come la chiami, Stella? No, Lea. Lea? Chiaro. Potevi chiamarla Stella, l'altra è la Luna e questa è Stella. Ma se c'è già Stella, c'è la Marina. Oh, ma perché un altro cane ti hai preso? Uguale a quello. No. È un Pincher. Ah, non è un Beautiful. No, un coso, è un... come si chiama? Un Rottweiler. No, un Cifander, come ti dia Pianacco, vesti di Cifander, vesti di Cifander. Un Beautiful anche a me, un Pitbull me lo volevano regalare, puro, puro, con pedigree e tutto. Pedigree? Sì, cioè, la madre c'ha pedigree, il padre lo stesso. Me lo volevano regalare, non l'ho voluto, ma cosa di buono che si gana in casa, dannato. Ma lascia perdere, lascia vedere un Beautiful che ci voglio un cane da lecca. Ci voglio un cane da lecca. Va bene, no, c'è uno che mi sembra che stia dando i bulldog francesi, mi sembra, non lo so, ho sentito così, mi devo informare, se uno lo prende a fare compagnia a Filippetto. Francese? Ma francese non è come tutto inglese, no? Sì, no, il mio è inglese, quello è francese, rimane più piccolo e con le orecchie, quello, con le orecchie dritte. Sì, già lo conosco, li conosco. Ehi, adesso sono belli i cani, ma non avrebbe due in casa, ecco la mamma mia, dice buone di... vedi tu, però io due no. No, se... boh, stiamo decidendo, ma... qua a Sassari. No, in campagna, cioè, Sassari. Va bene, chi è che vuole entrare? Io poi dopodiché che ora sono? Sono le 8:15, io vi saluto, bacio e abbraccio a tutti, dai che chiudo, metto a posto qua, che è tutto incasinato e ci sentiamo al prossimo. Ma poi faccio una prova di potenza. Allora qui sono 25 watt. E così sono 120 watt già, cambiato. Non stavo guardando il segnale Claudio, prova. Allora qui sono 120 watt. 120 watt, 25 watt. Vai, allora praticamente vai sul più del 930 e lo oltrepassi pure con 120 watt, invece con le, quanto hai detto, 20 watt sei 930. Ehi, ehi, allora lasciamo stare così, lo regolo bene. Sì, 20 watt, perfetto. Ok, dai, io vi saluto perché sono le 8:15, semmai ci sentiamo dopo, se ci siete, ok? Altrimenti a domani. Vai, Garifo. Tieni conto che questo apparecchio è riminzo, e in più c'ha lo smitter che arriva sino a 9:30, se no magari ti avrei dato anche di più. No, ma già va bene, io so per vedere se c'è la differenza, niente di che, già. Va benissimo alla grande, dai. Ok, vi saluto, buon proseguo a tutti e ci sentiamo, ciao! Ciao Cla, ciao, ciao Franco, ciao Luca, saluto via anche io, guarda, che porto il cane, se magari ci siete vi porto giù il portatile e parlo dal portatile. Io sono qua, ciao Cla, ciao, io sono qua Gianni, a casa da mamma. Ah, vabbè, io adesso porto giù il cane, là, mi porto giù il portatile, poi me lo vedi a regalo, poi vedi se arrivi. Penso che si sente che sono a casa della mamma, boh. Ah, si sente, quello è un portatile di lusso. Ciao. Dopo ci vediamo, allora ci sentiamo dopo. Sì, è proprio così diverso. Ok. Ma chiusa la rete. Gianni, ci sei? Gianni. Chi con me?